Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tony Servillo legge Il giorno della civetta, di Leonardo Sciascia. Diego Marchica fu arrestato al circolo dei cacciatori alle 9 di sera. Il maresciallo di B, che voleva con un viaggio fare due servizi, riuscì a farne uno solo. Voleva sorprendere i giocatori nell'azzardo della zecchinetta e arrestare Diego, ma i giocatori erano immersi, Diego compreso, in una briscola innocente, che evidentemente c'era qualcuno che stava alle poste e aveva visto l'avvicinarsi dei carabinieri. Ma Diego, briscola o no, dapprima indignato e poi remissivo, fu condotto in caserma tra i commenti della gente. I quali commenti alle orecchie di Diego e dei carabinieri arrivavano come espressioni di meraviglia e di commiserazione. E che ha fatto? Ma se si faceva gli affari propri, ma se non dava noia a nessuno, ma sotto sotto, appena sussurrati, esprimevano i quasi unanimi voti che Diego restasse a trascorrere nelle patrie galere il resto della sua vita. E mentre a B arrestavano Diego, a S Parrigneddu diventava il numero che la cabala dell'otto assegna al morto ammazzato. Unica forma di sopravvivenza, anima immortale a parte, cui era destinato. Le ultime 24 ore di vita, Calogero di Bella, detto Parrigneddu, aveva attraversato come nei sogni, a volte, si attraversano foreste che non finiscono mai, alte e spesse da precludere la luce e tenaci come roveti. Per la prima volta, da che faceva il confidente, aveva dato in mano ai carabinieri un filo da tirare che, a saper fare, avrebbe potuto smagliare tutto un tessuto di amicizie e di interessi in cui la sua stessa esistenza era intramata. Di solito le sue confidenze colpivano persone estranee a questa trama di amicizie e di interessi, giovinastri sconsiderati che la sera vedevano una rapina al cinematografo e l'indomani andavano a fermare un autobus, delinquenti di piccolo affare, insomma, isolati, senza protezioni. Ma stavolta la cosa era diversa. Vero è che aveva dato due nomi e uno di quella rosa che nella partita non c'entrava, ma l'altro era un nome sicuro, il filo giusto. E fin dal momento che l'aveva pronunciato, non aveva avuto pace. Il suo corpo era una spugna inzuppata di terrore. Persino il bruciore al fegato, il doloroso guizzo del cuore, sembravano spenti. Il Pizzuco, che al caffè Gulino voleva trattenerlo per offrirgli un amaro, come prima tante altre volte era accaduto, restò dapprima allocchito, dal rifiuto e dal brusco allontanarsi di Parrigneddu, come di fuga. E restò a pensarci su, che sveglio di mente non era, per tutta la giornata. Parrigneddu, dal canto suo, per tutta la giornata svolse in significati di morte l'offerta di un amaro. Amaro tradimento, amara morte. Del tutto trascurando la notoria affezione, cirrosi, secondo il medico, che Pizzuco aveva per l'amaro, amaro siciliano, ben inteso, della ditta Fratelli Averna, sul quale amaro si fondava la superstite fede separatista del Pizzuco, ex combattente del Levis, a suo dire, soltanto favoreggiatore di Giuliano, secondo la polizia. Tanti altri notarono lo smarrimento di Parrigneddu, il suo andare inquieto, come di chi si sente un mastino alle calcagna, e più lo notarono coloro che lui temeva e voleva schivare. E poi l'incontro con l'uomo che più temeva, con l'uomo capace di sapere già o di indovinare quel che era stato detto in confidenza tra le pareti di un ufficio. Aveva finto di non vederlo, aveva subito svoltato cantone, ma quello lo aveva visto, lo aveva seguito con quel suo sguardo che pareva spento sotto le palpebre grevi. Da quell'incontro, le ultime 24 ore del confidente si svolsero atroci e frenetiche. il vagheggiamento di una fuga che pure sapeva impossibile si alternava alla visione di se stesso morto. La fuga era il fischio lungo dei treni, la campagna che nella corsa del treno si apriva, paesi che ruotavano lenti con donne alle finestre e fiori vividi, e poi un tunnel improvviso, le parole di morte scandite dal ritmo del treno, le nere acque della morte che su di lui si chiudevano. Senza saperlo, in 3 giorni di inquietudine, di passi falsi, di visibili trasalimenti e sgomenti, si era da sé scavata la fossa. Ora stavano per abbattervelo, come un cane, pensava. Ma credeva la morte gli venisse per l'infamità che aveva fatta, che la conoscessero o la sospettassero, e non perché, esplodendogli in pazzia la paura, avesse offerto di sé l'immagine del tradimento consumato. I 2 nomi che lui si era lasciati scappare erano soltanto nella memoria del capitano Bellodi, il quale, non volendo trovarsi tra i piedi ancora un morto, assolutamente intendeva proteggere il confidente. Ma Parrigneddu, coi nervi ormai consunti dall'ansia, vedeva la sua confidenza vagare nell'aria come spula. E ormai perduto, all'alba di quella che doveva essere l'ultima sua giornata, al capitano scrisse su un foglio sottile da posta aerea 2 nomi e poi sono morto, e come chiudendo una lettera, ossequi Calogero di Bella. Andò a impostare la lettera che il paese era ancora deserto, e tutta la giornata passò, ora vagando per le strade, ora precipitosamente rincasando, una decina di volte deciso a chiudersi in casa e altrettante a farsi ammazzare, finché nell'ultima decisione di nascondersi, sulla porta di casa, 2 infallibili colpi di pistola lo colsero. La sua lettera il capitano la lesse dopo averne appresa la morte. Avendo dato al maresciallo di B disposizioni per il fermo del Marchica, il capitano Bellodi era tornato a C e stanchissimo direttamente all'alloggio. Quando lo avvertirono della morte del Di Bella, scese in ufficio e tra la posta del pomeriggio trovò la lettera. Ne ebbe profonda impressione. Quell'uomo usciva dalla scena del mondo con un'ultima delazione, la più precisa ed esplosiva che avesse mai fatto. 2 nomi al centro del foglio e sotto, quasi al margine, il disperato messaggio, gli ossequi e la firma. E non era la portata della delazione che impressionava il capitano, ma la disperazione, l'agonia che l'aveva suscitata. Quegli ossequi lo commuovevano di fraterna pietà e di doloroso fastidio. La pietà e il fastidio di chi, sotto apparenze già classificate e definite e respinte, improvvisamente scopre nudo e tragico il cuore umano. Con la sua morte, col suo estremo saluto, il confidente si era avvicinato in una più umana confidenza, che continuava ad essere sgradevole, fastidiosa, ma tuttavia trovava nel sentimento e nei pensieri dell'uomo cui era rivolta una risposta di pietà, di religione. Da questo stato d'animo sorse improvvisa la collera. Il capitano sentì l'angustia in cui la legge lo costringeva a muoversi. Come i suoi sottufficiali vagheggiò un eccezionale potere, una eccezionale libertà di azione, e sempre questo vagheggiamento aveva condannato nei suoi marescialli. Una eccezionale sospensione delle garanzie costituzionali, in Sicilia e per qualche mese, e il male sarebbe stato estirpato per sempre. Ma gli vennero alla memoria le repressioni di Mori, il fascismo, e ritrovò la misura delle proprie idee, dei propri sentimenti. Ma durava la collera. La sua collera di uomo del nord che investiva la Sicilia intera, questa regione che sola in Italia, dalla dittatura fascista, aveva avuto in effetti libertà, la libertà che è nella sicurezza della vita e dei beni. Quante altre libertà questa loro libertà era costata, i siciliani non sapevano e non volevano sapere. Avevano visto sul banco degli imputati, nei grandi processi delle assise, tutti i donne e gli zii, i potenti capi elettori e i commendatori della corona, medici ed avvocati che si intrigavano alla malavita e la proteggevano. Magistrati deboli o corrotti erano stati destituiti, funzionari compiacenti allontanati. Per il contadino, Per il piccolo proprietario, per il pastore, per lo zolfataro, la dittatura parlava questo linguaggio di libertà. E questa è forse la ragione per cui in Sicilia, pensava il capitano, ci sono tanti fascisti. Non è che loro abbiano visto il fascismo solo come una pagliacciata e noi dopo l'8 settembre l'abbiamo sofferto come una tragedia. Non è soltanto questo. È che nello stato in cui si trovavano una sola libertà gli bastava e delle altre non sapevano che farsene. Ma non era ancora sereno giudizio. E svolgendo questi pensieri, ora chiari, ora per difetto di conoscenza confusi, già viaggiava verso esse, nella notte che la gelida luce dei fari faceva ancora più vasta e misteriosa, uno sconfinato antro di splendenti schisti e di candenti apparizioni. Il maresciallo di esse aveva avuto una terribile giornata e peggior nottata stava per guadare. Tacite ed insidiose le acque del sonno che a momenti lo sommergevano. Si era portato dietro, dal paese vicino, il Marchica, che per la verità si mostrava quieto e addirittura mezzo addormentato, come un cucciolo attaccato alla poppa della madre. E così quieto era entrato in camera di sicurezza e già prima che la porta fosse stata richiusa si era buttato sul tavolaccio come un sacco d'ossa. E come non bastasse il Marchica, ecco che il maresciallo aveva trovato il morto come ultima sorpresa della giornata. Ce n'era abbastanza da indemoniare l'uomo più tranquillo, ma nel maresciallo, il languore della fame combinandosi con la stanchezza, c'era soltanto sonno. E proprio mentre scappava a prendere un caffè, sulla soglia del bar la voce del capitano, arrivato in quel momento, lo fermò. Che voleva dire essere nati sotto stella cattiva, almeno per i rapporti coi superiori. Ma il capitano lo raggiunse e prese anche lui un caffè e volle pagarli nonostante il barista dicesse del piacere che aveva il bar impersonalmente ad offrire caffè al signor capitano e al signor maresciallo, facendo così silenziosamente schiumare come shop di birra il malumore del maresciallo che pensava «Questo qui ora immagina che io venga a consumare di franco in questo bar». Ma il capitano aveva ben altri pensieri. Il corpo di Parriniedo era ancora sul selciato, coperto da un telo azzurrastro. I carabinieri di guardia sollevarono il telo. Il corpo era contratto come nel sonno prenatale, nella oscura matrice della morte. Aveva scritto «Sono morto» ed eccolo morto quasi sulla soglia di casa. Dalle finestre chiuse il mugolio di dolore della moglie, il mormore delle vicine di casa che erano corse a confortarla. Il capitano lo guardò per un momento, fece segno che lo ricoprissero. La visione dei morti gli dava sempre turbamento, ed ora particolarmente. Tornò indietro verso la caserma seguito dal maresciallo. Il suo piano era questo: fermare subito i due di cui Parriniedo gli aveva fatto estrema confidenza, interrogarli in condizioni e modi che aveva già abilmente disegnati, separatamente e quasi contemporaneamente, i due e il terzo che era già al sicuro. Il maresciallo ritenne facile, cioè senza eventuali conseguenti grane, il fermo di Rosario Pizzuco, ma sul secondo nome, che il confidente solo da morto, come si dichiarava, aveva avuto il coraggio di scrivere, ebbe visione della Iliade di guai che da un gradino all'altro, giù, giù, come una palla di gomma, sarebbe finita col rimbalzare in faccia a lui, maresciallo maggiore Arturo Ferlisi, comandante alla stazione di S, e non per molto tempo ancora, dal modo come le cose stavano mettendosi. Smarrito, fece rispettosamente presenti le conseguenze al capitano. Il capitano le aveva già valutate, non c'era niente da fare. L'asino bisognava attaccarlo dove voleva il padrone e pareva al maresciallo Ferlisi di stare attaccando l'asino in mezzo alle terraglie e l'effetto della scalciata sarebbe stato da ricordarsene per sempre.